Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Non ci sono scherzi questa settimana come è successo la scorsa. Tutte le sere c'è Eclettica, fra le 19 e le 20, regolarmente. Infatti questo è l'ultimo giorno della settimana, venerdì, e quindi ormai non c'è più spazio per nessuno scherzo. Tutte le sere tra le 19 e le 20, Giulio Caperdoni a tenervi compagnia con la sua musica, con i suoi film e con i suoi incipit. E poi, una volta c'erano le repliche radiofoniche per poter riascoltare quanto è andato in onda in un certo orario. Ora, invece, Eclettica si avvale del podcasting, di cui voi ascoltatori vi potete avvalere per scegliere di riascoltare la trasmissione come e quando meglio preferite. Tutti i dettagli li trovate su myspace.com/eclettica oppure su www.radiorockfm.com, oppure se volete qualche indicazione in più, se siete vergini dal punto di vista del podcasting, è a disposizione anche l'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com per spiegazioni particolareggiate. Il temporale era cominciato poco prima di mezzanotte e aveva spazzato via il concerto dei Clacson e tutto il frastuono che normalmente annuncia l'anno nuovo sulla Strip. Nella sottostazione di West Hollywood, il 1950 si era presentato sotto forma di una ondata di appelli urgenti, ciascuno dei quali seguito dall'intervento di ambulanze e altri automezzi. Questo era l'incipit del Grande Nulla di James Ellroy. We'll be right back. just struggling in the car. You walk up, you open the door, and you say, "You're lying, George." "Oh, hey, you, get your damn hands off her." "You really think I ought to swear?" "Yes, definitely. God damn it, George, swear." "Wakey, wakey, rise and shine, it's on again, off again, on again. Watch me fall like dominoes in pretty patterns, fingers in the back of the pie. I'm tingling, tingling, tingling. It's what you feel, not what you are to, what you are to. Reasonable, sensible, different than the cup. I guess I'm stuck, stuck, stuck. We thought you had it, but not. No, no, for no real reason. Squeeze the tubes and empty bottles. I take a bow, take a bow, take a bow. It's what you feel now, what you are to, what you are to. The elephant that's in the room is tumbling, tumbling, tumbling. And duplicate and triplicate and plastic bags and duplicate and triplicate. There from the neck up, I guess I'm stuck, stuck. Stuck with all your head in, but now, now, now. Exactly where do you get out? Is enough, is enough. I love you, but enough is enough, enough. And I stuck, there's no real reason. E questo è il brano che io personalmente ho scelto come singolo in eclettica, quindi limitatamente ai nostri 60 minuti giornalieri da In Rainbows dei Radiohead. È la traccia numero 6 delle 10 in totale che sono contenute all'interno di quest'album, di cui tanto si è parlato soprattutto per il suo innovativo metodo di distribuzione che salta completamente le case discografiche, che sicuramente stanno vivendo questo momento con molta apprensione, perché i Radiohead, come sembra stiano effettivamente facendo, riescono in questo tentativo, sicuramente saranno seguiti da molti altri. Invece abbiamo aperto Eclettica con una band che proviene da Austin, Texas, che è appena esordito con un EP per la SVC Records, dal quale ho estratto come primo brano della trasmissione Sweet Girl, uno slogan che accompagna le note biografiche di Ringo Death Star è "Shoegaze is back", ovvero sia il noise pop di inizio anni 90, quello che piaceva molto in quegli anni al grande Maggie, Alan Maggie. E per proseguire direi di ascoltarci del buon, sano, vecchio rock and roll, anche se nuovissimo, un album di debutto per la Dollar Records di una band che proviene dalla città di New York City. Si chiamano Stalkers e questa è Circus Baby. I saw your knee, but he's on the chandelier like a Non l'ho mai conosciuta da viva. Lei, per me, esiste solo attraverso gli altri, nell'evidenza delle loro reazioni alla sua morte. Scavando a ritroso e attenendomi ai fatti, posso dire che era una ragazza triste e una puttana. Nella migliore delle ipotesi era una fallita, un'etichetta che, del resto, potrei applicare a me stesso. L'avrei consegnata volentieri a una fine anonima, poche righe su un rapporto dell'omicidi, una copia carbone per l'ufficio del magistrato e formulari per la fossa comune. Ma lei non avrebbe approvato questa conclusione. Avrebbe preferito rendere manifesta la sua storia in tutta la sua brutalità. Le devo molto, e poiché io solo conosco i fatti per intero, tocca a me mettere per iscritto queste righe. Questo era l'incipit di Dahlia Nera di James Ellroy. Odd that the doe, who looks like it wants to speak, is the same doe I saw in my yard last week. Really hard waiting 30 years before I can talk to you about everything that's happened in the past few days. I'm really gonna miss you, Marty. I'm really gonna miss you. We'll be right back. ero preso l'impegno con tutti voi che in questa nuova stagione di Eclettica sulle frequenze di Rock FM avrei trasmesso solo brani nuovi, brani non trasmessi in precedenza. E fino ad ora sto riuscendo a mantenere questo impegno, perché se è vero che già avevo trasmesso un estratto da You Follow Me, l'album che vede assieme Nina Anastasia con il Dirty Three Jim White, è anche vero che però questo brano non era Odd Said Doe, il brano che ci siamo ascoltati qualche minuto fa. Land of Talk invece è la band che abbiamo appena salutato, ascoltata con la versione P-Dub Mix di Young Bridge, un interessante trio dalla città canadese di Montreal che sempre più si sta confermando come una delle città più interessanti dal punto di vista musicale, fra l'altro con una proposta molto variegata, non un solo genere che identifica quella città, ma sono veramente tante sfaccettature musicali che arrivano dalla capitale del Quebec. È la capitale del Quebec, questo non me lo ricordo, però di sicuro è in Quebec. Per chiudere, e confermando quanto detto poco fa, con Caribou e Melody Day, però non nella versione che ci eravamo ascoltati per parecchie settimane alla chiusura della scorsa stagione, ma anche in questo caso con una versione remix. Infatti si tratta di Melody Day Fortet Remix. per l'argomento trattato. Eclettica. La programma di per l'argomento trattato e per la drammaticità di alcune immagini. Se ne consiglia la visione solo. Eclettica. Se ne consiglia la visione solo. Eclettica. Ad un pubblico adulto. Apartment last to make it, with all the rain to take it. Will my apartment make it? Will my apartment last to make it, with all the rain to take it? Will my apartment make it? Make it. Apartment last to make it, without the rain to take it. Will my apartment make it? Will my apartment last to make it, without the rain to take it? Will my apartment make it? Make it. Yeah.